Siamo abituati ad essere intermedi, cerchiamo spesso una via di mezzo, ma nella vita in definitiva vi sono solo due aspetti che determinano la via di mezzo, come la nascita e la morte, il bianco e il nero, il dentro e il fuori, l'alto e il basso. Proprio perché vi sono solo due aspetti, la parola di Dio considera due modi di nascere e due modi di vivere, due modi di morire e due modi di risuscitare. Prendiamo in esame questi aspetti. Due modi di nascere. Nessuno di noi avrebbe mai pensato che ci fossero due modi di nascere finché Gesù lo disse inaspettatamente e apertamente. Or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne a Gesù di notte e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore, venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere di nuovo. Lo spirito soffia dove vuole e tu ne odi le parole, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo spirito. Giovanni 3, 1 a 8. Vi sono dunque due nascite, due modi di nascere. Il primo è di tutti gli uomini. Abbiamo fatto tutti il nostro ingresso nel mondo allo stesso modo, tutti per mezzo di una donna. Questa è la sola nascita che Nicodemo conoscesse. Cristo stesso vi si è sottoposto quando assunse la natura umana per salvare l'uomo. Ma accanto a questa nascita naturale, Gesù parla di un'altra nascita, quella dello Spirito, alla quale partecipano tutti quelli che hanno ricevuto la vita di Dio per mezzo della persona dello Spirito Santo. La prima nascita ci introduce in una famiglia, ci dà dei genitori, dei fratelli e delle sorelle, con i quali abbiamo in comune la natura carnale per il vincolo di sangue che ci unisce. La nuova nascita avviene quando ci riconosciamo peccatori e scegliamo di credere che l'opera di Cristo sia sufficiente per la nostra salvezza personale. Si entra così nella famiglia di Dio e si acquistano pure fratelli e sorelle, rappresentati da tutti quelli che hanno la stessa fede ed esperienza. Nascere in questo mondo non è una scelta, nascere nel regno di Dio dipende dall'accettazione di Gesù Cristo. Sei nato di nuovo mediante l'opera della persona dello Spirito Santo. Due modi di vivere. È evidente che non tutti viviamo nello stesso modo, perché ci sono operai e professori, contadini e impiegati, autorità civili e cittadini, atei e religiosi. Ma la parola di Dio ci riferisce di altri due modi di vivere. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Perciò, d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. 2 Corinzi 5, 14, 17. L'esistenza nostra si spartisce fra obblighi e svaghi, che a loro volta si suddividono in funzione delle attitudini e dei gusti, e perciò nella società vi sono espressioni diverse, ed ognuno trova il suo posto. Nonostante vi siano pluralità di compiti, e poiché Dio è sempre stato lo spartiacque per ogni cosa, vi sono due soli modi di vivere: o si vive per Cristo, o non si vive per Lui. Vivere per Cristo significa che il nostro obiettivo e fine ultimo di ogni cosa è di cercare di piacere a Lui. È quello di fare le cose che a Lui sono gradite. Non vivere per Cristo significa avere come unico obiettivo la realizzazione dei propri desideri e delle proprie ambizioni, o a voler essere filantropi, fare del bene agli altri per essere soddisfatti solo di avergli fatto del bene. Vivere per Cristo significa essere disposti a ricevere dalla società il rifiuto e il disprezzo che ebbe Cristo. Significa amare la verità più del successo del proprio interesse. Mentre non vivere per Cristo significa cercare l'approvazione dei più a costo di far tacere la verità, significa seguire l'andamento di questo mondo anche quando ciò non è secondo il volere di Dio. Questi due modi di vivere non sono sempre così nettamente distinti, anche se una netta distinzione ci è, perché più la società con i suoi principi morali si avvicina al messaggio del Vangelo, più è difficile distinguere chi fa la volontà di Dio da chi non la compie. Solo Dio conosce chi sono i suoi, ma il Figlio di Dio rifiuterà ogni forma religiosa che non mette al primo posto Gesù Cristo. Due modi di morire. E, scritto nella parola di Dio che si può morire senza misericordia, o nella fede. La scelta di morte che noi dobbiamo fare non riguarda il dove, né il quando, ma in che modo. Nessuno di noi è in grado di scegliere dove e quando morire, perché questo è stato già preordinato fino dalla fondazione del mondo. Ma noi possiamo scegliere la condizione spirituale in cui lasciamo questa terra, forma spirituale che, del resto, condiziona anche tutta l'eternità. La misericordia è quel sentimento di compassione per l'infelicità altrui che spinge ad agire per alleviarla, o quel sentimento di pietà che muove a perdonare o desistere da una punizione. Di questo atteggiamento tutti ne abbiamo bisogno, perché tutti manchiamo in molti modi e in molte maniere, soprattutto per quanto riguarda il nostro rapporto con Dio. È perciò normale per dei peccatori come noi avere paura di morire senza avere avuto misericordia da parte di Dio. Davanti alla realtà che sul suo letto di morte lo scienziato frerizza che pur avendo il cervello pieno di cognizioni il suo sapere non gli reca nulla, o che il grande uomo politico, il quale sottomette alla propria volontà tutto il popolo, in questa stessa situazione vede svanire tutta la sua autorità, o che l'uomo, il quale aveva l'abitudine di sbrigare importanti affari, ora si trova ad un tratto senza risorse per l'affare più grande della sua vita, dovremmo considerare che questo è il vero dramma al quale possiamo andare incontro. Molto diverso è il morire nella fede. Coloro che sono morti nella fede erano persone simili a noi che hanno udito, come noi, una notizia da parte di Dio e vi hanno posto fede. Non hanno visto nulla, non hanno ottenuto le promesse, ma hanno vissuto e terminato la loro esistenza attendendo ciò che a loro era stato promesso. Questa è la vera fede. Morire con la fede non significa fare una bella morte, perché alcuni di coloro che ci hanno preceduto morendo nella fede sono stati distesi sulla ruota e martoriati non accettando la liberazione per ottenere una migliore risurrezione. Altri ancora hanno subito schermi e flagelli, e anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Ebrei 11, 34-37. Vi sono solo due modi per morire, perché vi sono solo due luoghi dove andare. Si può morire nella fede a condizione che accettiamo questo aspetto radicale della Scrittura. Diversamente, siamo destinati a morire senza misericordia. Due modi per risorgere. Anche se questo sentimento datoci da Dio viene soffocato, nel profondo del nostro essere sappiamo che la morte non è la fine di ogni cosa. Nel nostro cuore vi è il senso dell'eternità e un giorno, secondo le promesse di Cristo nella bocca del quale non fu mai trovato un errore, tutti gli esseri umani creati da Dio risorgeranno. Ma anche la risurrezione non sarà uguale per tutti, anche se tutti risorgeranno. Gesù lo disse chiaramente nel Vangelo di Matteo, e questi andranno nelle pene eterne, e i giusti nella vita eterna, 25-46. Dunque, non vi sono dubbi che nel giorno della risurrezione vi siano due luoghi diversi ai quali sono stati destinate le persone. Questi luoghi hanno in comune una cosa, e cioè che sono eterni, eppure sono all'opposto per la qualità di situazioni che offrono, perché mentre in uno di questi alcuni avranno per sempre del dolore, nell'altro alcuni avranno per sempre gioia. Nonostante questa brutta notizia sia predicata da millenni, sembra che le persone non se ne curino. Anzi, alcune ci ridono sopra. Questo atteggiamento non è per nulla saggio. Perché un avvertimento, per quanto possa essere falso, deve sempre essere preso in considerazione e verificato. Inoltre, si disprezza il Vangelo perché sul momento lo si ritiene solo un cumulo di parole. Sebbene queste siano molto forti, ma per comprendere la gravità del messaggio si dovrebbe mettere anche solo un dito per pochi minuti sul fuoco e rendersi conto di ciò che Gesù vuole intendere. Cristo Gesù ha parlato, per coloro che rifiutano la misericordia di Dio, di un luogo di fuoco e che le persone avrebbero avuto tanto dolore da stridere i denti, secondo una sua espressione. Poiché la resurrezione è certa, è saggio decidere ora dove andare. Alcune persone, di fronte a questo invito, rispondono che ci penserà Dio e che lasciano a Lui decidere, ma dimenticano volontariamente che Dio ha già deciso come destinare le persone. Gesù disse: chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Giovanni 3:36. Dunque si può risorgere salvati o perduti. I salvati sono coloro che hanno posto fede in Cristo per essere da Lui perdonati da tutti i peccati. I perduti sono coloro che si disinteressano o rifiutano di essere salvati da Cristo. Questo è già stato deciso da Dio. È vero che il regno dei cieli è fatto per tutti, ma vi sono due modi di nascere e due modi di vivere, due modi di morire e due modi di risuscitare, affinché siano degni solo coloro che scelgono i piani di Dio. Febbraio 2005. Ellero.